personaggi letterari del Falco e il Gabbiano di Enrico Ruggeri. Oggi si va a Parigi in piena Belle Époque, quindi siamo in un periodo particolare pieno di promesse dove tutto sembra a portata di mano, fama, denari, bella vita. Il protagonista della nostra storia si chiama Georges Duroy. È un ragazzo di origine normanna, reduce dal servizio militare in Algeria, che arriva nella capitale e vorrebbe partecipare a questo grande banchetto, vorrebbe mangiare tutte le portate e magari a portarsi anche gli avanzi a casa per il giorno dopo. In realtà per adesso per lui le cose non sono così semplici. Allora, questo Georges Duroy per ora ha solo un impiego piuttosto triste alle Ferrovie Nord e naturalmente un senso di frustrazione che gli pervade l'animo, che gli fa avere in odio la vita che conduce. È diviso tra la nostalgia della sicurezza che gli dava e il suo grado da sottufficiale e il desiderio di dimostrare al mondo di che stoffa è fatto lui. Camminava come quando era ancora in uniforme d'ussaro, impettito. Le gambe un po' divaricate, quasi fosse appena smontato da cavallo. E procedeva brusco nella via piena di folla, urtando di spalle la gente, regalando spintoni per non spostarsi dalla sua rotta. Portava il cilindro, piuttosto sfiorito, calato leggermente su un orecchio, e batteva i tacchi sul selciato. Pareva in continua sfida di qualcuno, dei passanti, delle case, della città intera, per spocchia di baldo soldatone capitombolato nella vita civile. Eh sì, e la vita civile nella quale lui è capitombolato è misera, è fatta di una stanza ammobiliata in un caseggiato che guarda sui binari, con uno stipendio che lo lascia a terra prima ancora della fine del mese. Insomma, stiamo per raccontare una storia di rivalsa che potrebbe essere degli ultimi 10 anni. E invece siamo un po' più indietro nel tempo. Il nostro racconto inizia alla fine di giugno. Lui si sta girando, George, per la città, gli ultimi spiccioli. Deve decidere se prendere qualcosa da mangiare o bersi una birra. Mentre ci sta pensando, urta un passante. La sua faccia gli ricorda qualcosa. È un suo commilitone, un certo Charles Forestier, che lo prende sotto braccio, che lo invita ad andare a un caffè. E gli incontri che potrebbero cambiarti la vita. I due si raccontano gli ultimi eventi. Duroy ha poco da dire. Forestier invece ce l'ha fatta, perché è sposato, è un giornalista e si è sistemato bene. Eh sì, è redattore politico Forestier al giornale Vie Française. Ascolta le lamentele dell'antico compagno d'armi, col quale ha un'empatia data dalla vicinanza durante la guerra. Insomma, lo prende a ben volere, gli consiglia di seguire la strada del giornalismo. E siccome lui però non ha mai scritto una riga in vita sua, gli impartisce la prima lezione. Non è mica difficile, sai, passar per un cannone. Basta non farsi beccare in flagrante delitto di ignoranza. Bisogna sapersi destreggiare, schivare le difficoltà, girar l'ostacolo. E basta un dizionario per chiudere il becco al prossimo. Gli uomini sono tutti stupidi come oche e più ignoranti d'un bue. E per avviare l'amico alla professione, Forestier invita Giorgio a cena per il giorno dopo, dove ci sarà anche un ospite che va conosciuto, l'editore della Vie Française, il signor Walter. Per festeggiare l'idea, i due terminano la serata alle Folies Bergère, si gode lo spettacolo gratis il nostro protagonista, anzi alla fine lui conquista anche una delle tante signore al lavoro nel teatro, la prostituta Rachel. E perché bisogna sapere un'altra cosa importante del nostro protagonista. Lui è un bell'uomo, è quel tipo di uomo che piace alle donne. Vi faccio ascoltare una sua descrizione. Aveva in sé una certa vistosa eleganza, un po' volgaruccia, ma innegabile. Alto, ben costrutto, biondo, d'un biondo castano vagamente strinato, con un paio di baffi arricciati che sembravano spumeggiargli sul labbro. Due occhi azzurri, limpidi, bucati da una pupilla piccolissima, e i capelli, naturalmente ricci, spartiti nel bel mezzo della scriminatura. Pareva proprio il cattivone dei romanzi popolari. E la sera dopo questo incontro, Georges Duroy si presenta a casa di Forestier, a un frac che ha preso a Nolo grazie a un prestito del suo amico. È preoccupato, ha paura di non essere all'altezza, è intimidito quando entra e vede la bella casa dell'amico, e in salotto c'è la moglie Madeleine, una donna giovane, bionda, con un'espressione intelligente. Intanto arrivano gli altri ospiti, il padrone del giornale, il signor Walter con la moglie Virginie, Jacques Rival che è un giornalista della Revue Française, Norbert de Varenne, un poeta che collabora col giornale, e infine arriva Clotilde de Marelle, un'amica e parente alla lontana della moglie Madeleine, e arriva con la figlioletta Lorraine. Insomma, Duroy passa una serata inebriante, seduto tra la signora De Marelle e la figlia, si invaghisce di una, si intrattiene con l'altra, è reso coraggioso dal vino e poi stupisce tutti con qualche ricordo ben raccontato della sua vita in Algeria. Walter gli commissiona una serie di articoli sull'argomento. Insomma, la serata è un successo per Georges, che si trova alla fine a camminare per i boulevard come fosse su una nuvola per la tanta felicità. Intravede molto più di uno spiraglio, cioè la sta facendo, la vita sembra finalmente riservargli un destino all'altezza delle sue ambizioni. Con questo pensiero lui rientra nel grigio palazzone abitato da operai e impiegatucci. Fu preso da un violento senso di nausea e sentì impellente il bisogno di uscire di lì, di avere anche lui una casa come quella dei ricchi, una casa pulita, piena di tappeti. Un tanfo opprimente di cucina, di gabinetti e di umanità, un lezzo stagnante di sporcizie e di vecchi muri che nessuna corrente d'aria avrebbe potuto spazzar via, riempiva l'ambiente da cima a fondo. Tutta roba che sapeva di miseria, l'umiliante miseria delle camere ammobiliate di Parigi. Esasperato, provò un senso di ribellione contro la povertà della sua vita. Doveva uscir subito di lì, pensò. Finirla dall'indomani stesso con quell'esistenza meschina. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano. E quindi Georges Duroy rientra nella sua camera ammobiliata con un senso di disgusto per quello che lo circonda e ciò che rappresenta, cioè la miseria, l'anonimato. Però lui deve mettere per iscritto quello che ha appena raccontato a tavola, cioè deve scrivere questo articolo sulle sue memorie di guerra che possa preparare la sua rivincita. E solo che appena si mette davanti al foglio bianco non riesce a cavare fuori granché, perché una cosa è raccontare, una cosa è scrivere. È disperato. Il mattino dopo va dal suo amico al giornale e questo lo spedisce dalla moglie Madeleine per aiutarlo, per risolvere il problema. Infatti la signora Forestier si rivela una scrittrice capace di organizzare i ricordi di Georges e di comporli in un articolo pieno di vigore, di interesse. E i due, terminato il lavoro, si salutano cordialmente e in quel momento arriva in visita un amico intimo della signora, il conte di Vaudrec, che è un assiduo frequentatore della casa. E così lui ha l'articolo pronto. Duroy si presenta al giornale e viene assunto. La sua vita è giunta a una svolta. Questo è il momento che sta aspettando per iniziare la sua scalata verso l'alto, il vero e proprio colpo d'ala. E il suo obiettivo è sempre stato quello, da quando aveva lasciato il paese, i genitori nella Normandia dalla quale era nato, passando per l'Algeria, a Parigi. Insomma, lui aveva sempre avuto un unico scopo: salire di livello a qualsiasi costo. I suoi compagni dicevano di lui: è un dritto, un furbacchione, uno che ci sa fare, che riuscirà a sbrogliarsela. E questo sarà appunto ripromesso d'essere: un dritto, un furbacchione, uno che ci sa fare. La sua coscienza originaria di normanno, strapazzata dalla pratica quotidiana della vita di guarnigione, stiracchiata dal cattivo esempio delle ruberie in Africa, dei guadagni illeciti, delle soperchierie equivoche, nonché sferzata dalle idee d'onore che hanno corso nell'esercito, dalle bravate militaresche, dal patriottismo, dalle belle imprese che si raccontano fra loro i sottufficiali e dalla vanità professionale, era diventata una specie di scatola a triplice fondo, dove si trovava un po' di tutto. Ma la smania d'arrivare vi regnava sovrana. E qui nella vita civile non servono le armi, non bisogna sparare, qua bisogna vedere la società che ti circonda con realismo e sconfinare velocemente nel cinismo. E lui ha questa capacità di adattarsi velocemente alle situazioni e soprattutto di sapersi servire degli altri senza scrupoli pur di andare avanti per la sua strada. Al giornale, grazie anche ai consigli dei suoi colleghi, lui capisce subito che deve scrivere degli articoli utili più a se stesso che al diritto alla verità, all'informazione. E anche qui, insomma, anche ai giorni d'oggi troviamo illustri esempi di questo tipo di giornalisti. E poi lui diventa reporter politico, comincia a conoscere i trucchi per destreggiarsi nel sottobosco che gestisce il potere. All'inizio però lo stipendio del giornale gli sembrava una fortuna e adesso non riesce a star dietro ai suoi desideri, perché al lusso ci si abitua subito e i desideri sono tanti e naturalmente aumentano man mano che l'avvicinanza con persone che hanno soldi, e lì capisce veramente di quante cose lui ha bisogno. Devo imparare il trucco anch'io, pensava, scorgendo certi suoi colleghi sempre con le tasche gonfie d'oro, senza peraltro riuscir mai a capire a quali segreti espedienti essi ricorressero per procacciarsi tanta agiatezza. E pieno di invidia, immaginava intrallazzi a lui ignoti ed equivoci, ricompense per favori fatti, tutto un commercio illecito ma pur accettato e consentito. Già, doveva penetrare il mistero, entrare nella tacita associazione, imporsi ai colleghi che si dividevano la torta senza di lui. Insomma, il tarlo che sta divorando Duroa è un tarlo attualissimo, un morbo che attanaglia quasi tutti noi. E lui si sta lambiccando il cervello per capire come fare, per avanzare nella società che conta, per prendersi quelle fette di torta. E gli viene in mente che la signora De Marelle, quella che aveva incontrato alla cena dei forestieri, l'aveva invitato ad andare a trovarla. Così si presenta a casa sua, viene accolto con entusiasmo sia dalla madre che dalla figlia, dalla piccola Lorraine. Anzi, per Lorraine la figura di George è così simpatica che lo soprannomina Bellamy, il bell'amico, è un soprannome che gli rimarrà attaccato addosso per sempre, perché George in realtà è bello e piace alle donne, e piace anche alle donne quando sono molto giovani, quasi delle bambine come Lorraine. La signora De Marelle è a casa da sola perché il marito è un ispettore delle ferrovie che trascorre a Parigi solo 8 giorni al mese, un periodo che la moglie chiama svogliatamente la corvée. Dopo questo primo pomeriggio seguono altri appuntamenti che culminano con una cena assieme ai forestieri al ritorno. George accompagna la signora De Marelle in carrozza fino a casa e durante il tragitto tenta l'approccio e lei accetta con passione. Per lui è un trionfo, parte il capitolo buono. Ne aveva in pugno una, finalmente, una donna maritata, una donna di classe, di gran classe, della buona società parigina. Come tutto era stato facile, inaspettato. Fino a quel momento aveva creduto che per avvicinare e conquistare una di quelle creature tanto bramate occorressero infinite premure, attese interminabili, fosse necessario un abile assedio di galanterie, di paroline d'amore, di sospiri e di regali. Ed ecco invece che era bastato un piccolissimo tentativo perché d'un tratto la prima in cui si era imbattuto gli si abbandonasse fra le braccia con una rapidità che lo lasciò sbalordito. Clotilde Marene è una donna piena di risorse, un'amante generosa ma è anche divertente, ama la vita boemiene, quindi va con Giorgia a mangiare e a bere nelle bettole dove le piace andare travestita da servetta. E poi, per incontrare l'amante con maggiore libertà, Clotilde affitta un piedaterra che paga di tasca propria e poi ogni tanto allunga anche qualche franco al nostro eroe, che all'inizio ha una riluttanza, insomma si vergogna e però non dice di no ai regali della donna, insomma sposta ancora più in basso o in alto, a seconda dei casi, l'asticella del suo senso morale. Vi si rassegnò con la sua naturale leggerezza, che sempre lo sospingeva ad accantonare ogni fatto sgradevole della vita. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Georges Duroy, che viene rinominato Bellamy, l'amico dal bel volto. Un bell'uomo che ha dietro di sé una volontà cinica di scalare le vette della buona società. Grazie all'amico Forestier, Bellamy, come viene ormai chiamato da tutti, diventa giornalista e poi però diventa l'amante della bella e simpatica Clotilde Marel. Però non gli basta neanche questo, perché il suo è un bisogno di vita, ma soprattutto una voglia di scalare la vita, di allontanarsi dalla sua condizione di miseria iniziale, forse dal senso di morte che impregna tutto quello che lo circonda. Beh, un senso di morte che è il risultato di una esistenza fondata sul materialismo, sulla soddisfazione di bisogni terreni, senza nessuno slancio verso valori più ideali e meno utilitaristi. E anche qui, insomma, è una storia che sembra una storia dell'anno scorso. Lui non riesce a elevarsi spiritualmente, lui vuole elevarsi materialmente, e questo naturalmente porta con sé una insoddisfazione costante, perché quando i tuoi valori sono solo materiali vuoi ottenerne sempre di più, perché non hai nessun tipo di aspettativa più nobile dalla vita. Anche qui, insomma, sembra che si stia raccontando una storia del 2015. Il timore della morte è ancora più evidente quando una sera Bellamy accompagna Norbert de Varenne a casa. Il poeta lo sta angustiando con discorsi cupi e senza speranza. La vita è una salita. Mentre vai su, guardi in alto, alla cima, e ti senti felice. Ma quando l'hai raggiunta, quella cima, scopri di colpo la discesa e la fine, che è la morte. Parole che Bellamy non vuole sentirsi dire, parole sgradevoli che vuole scacciare correndo dietro a una donna, bevendo una birra assieme a un collega, spendendo dei soldi alle Folies Bergères. Queste sono parole che ti perseguitano anche se non le vuoi sentire. Un terror confuso, immenso, opprimente gravava sull'animo di Duroy. Il terrore del nulla sconfinato, ineluttabile, che distrugge all'infinito ogni esistenza, sempre così breve e meschina. George già piegava la fronte sotto la minaccia. Pensava alle mosche che vivono poche ore, agli animali che vivono qualche giorno, agli uomini che vivono qualche anno, alle altre terre dell'universo che vivono qualche secolo. Qual differenza fra gli uni e gli altri? Qualche aurora di più. Tutto qua. Insomma, la grande risorsa e la grande speranza di Bellamy è solo continuare la sua scalata senza porsi altri pensieri. E in suo aiuto, se così si può dire, arriva la malattia dell'amico Forestier, che si fa sempre più grave. La moglie lo porta a Cannes nella speranza che il clima mite del mare lo possa aiutare, ma in realtà il commilitone sta morendo. E quando tutto è perduto, Madeleine manda a chiamare Bellamy per aiutarla a addolcire gli ultimi istanti di vita di Forestier. Di nuovo sembra braccato dalla morte Bellamy, e lui reagisce con uno slancio vitale, sordo a qualsiasi tipo di empatia, perché sul letto di morte dell'amico si guarda attorno e invidia quello che negli anni è riuscito a costruire il moribondo, e gli invidia anche la bella moglie e la posizione. È quando lui muore a cadavere ancora caldo, si dichiara Madeleine. E così Clotilde rimane solo un gradino di questa scalata e un ricordo viene rimossa. Bellamy e Madeleine iniziano la loro vita coniugale con una visita in Normandia ai genitori di lui. L'incontro non è dei più felici, perché la sposa, la neosposa, non apprezza la grettezza dei suoi suoceri, insomma vuole tornare subito a Parigi, e lì i due danno vita a un matrimonio che è quasi un'alleanza politica, perché lei è intelligente e ambiziosa, lui è soprattutto ambizioso, poi ha quel savoir-faire ed è capace di muoversi. Insomma, lui prende subito il posto da caporedattore di Forestier, e poi, dopo aver ereditato la moglie di Forestier, si trasferisce a casa sua, dorme nel suo letto, e insieme scrivono articoli che influenzano la vita politica del momento e invitano ministri a casa, cominciano a appoggiare trame e intrighi, entrano nelle sfere del potere. Duroy stava diventando celebre nei circoli politici, si rendeva conto del suo crescente prestigio dall'intensità delle strette di mano e dall'ampiezza delle scappellate. La moglie, da parte sua, lo colmava di meraviglia ed ammirazione per la sottigliezza dell'ingegno, l'abilità nell'ottenere informazioni e il numero delle conoscenze. A questo punto Madeleine ha un'altra intuizione notevole, perché il cognome di Bellamy Duroy è modesto e allora bisogna cambiare qualcosa. Intanto viene spezzato in due, quindi diventa Duroy, con questo du che è diventato particella, come dire, lascia intuire qualche nobile natale. E poi aggiungono qualcos'altro. Bellamy era nato a Canteleu in Cantel e loro si ingegnano e Bellamy diventa Georges Duroy de Cantel, che suona veramente bene per uno che vuole scalare la buona società di Parigi. Ma naturalmente Bellamy è perennemente insoddisfatto, non gli basta il denaro, la posizione e la moglie, che peraltro lui sospetta di essere un po' troppo intima col ministro degli esteri, il signor La Roche-Mathieu. Anche la moglie in questo momento gli sembra non all'altezza delle sue velleità. Il ministro degli esteri la faceva quasi da padrone in casa Duroy. Vi capitava in qualsiasi momento. Recava dispacci, ragguagli, informazioni che dettava sia al marito sia alla moglie, come se fossero suoi segretari. Quando Duroy, andatosene il ministro, restava solo con Madeleine, sbottava in oscure minacce, in perfide insinuazioni contro il modo di fare di quel mediocre nuovo arrivato. Ma lei alzava le spalle sprezzante, ripetendo: «E perché non fai altrettanto anche tu? Diventa ministro, e allora potrai alzar la cresta, se no, zitto». Lui s'arricciava i baffi guardandola di tralice. «Mica sanno di che son capace, io», diceva. «Forse se ne accorgeranno un giorno». Lui è entrato in un mondo nel quale le miserie altrui sono ben evidenti e invece si fatica a accorgersi delle proprie, e lui vuole migliorare la sua posizione. Intanto è entrato nelle grazie della moglie del suo editore, la signora Walter, che è una donna non più giovane, religiosa, che però in un attimo di debolezza gli confessa di essere innamorata di lui fin dal primo momento. Figurati, è un rigore a porta vuota. Bellamy la seduce facilmente, così viene a sapere che La Roche-Mathieu e suo marito stanno conducendo una speculazione di denaro, sfrutta l'informazione e anche lui riesce a guadagnare una somma molto alta. Poi muore il conte di Vaudrec, ricordate, quello che rappresenta la prima cena, quella dalla quale è partito tutto, e il notaio rivela che il testamento di questo gentiluomo è a favore di Madeleine, le lascia 1 milione di franchi, però per legge una donna non può ricevere denaro da una persona non familiare in quell'epoca, e se non ha prima l'approvazione del marito. Bellamy si rifiuta di concederla perché dice: altrimenti tutti penseranno che la moglie sia stata l'amante del conte, quindi escogita questo stratagemma, si fa donare da Madeleine metà dell'eredità, sia per far sembrare agli occhi del mondo che il conte abbia lasciato il suo patrimonio a entrambi, e sia per guadagnarsi senza colpo ferire 500.000 franchi. Ma a forza di frequentare casa Walter come amante della signora, lui sta mettendo gli occhi sulla figlia Suzanne, molto più giovane ovviamente, fresca, bellina, probabilmente innamorata di lui. Soprattutto adesso, dopo che il padre ha fatto questa speculazione che l'ha reso milionario, proprietario di uno splendido palazzo acquistato da un aristocratico in rovina, e soprattutto adesso questa ragazza è molto molto molto ricca. Insomma, un matrimonio con questa ragazza significherebbe la consacrazione, però per sposare Suzanne Bellamy deve sbarazzarsi di sua moglie, e per farlo concepisce un piano veramente meschino, considerando tutto quello che Madeleine ha fatto per lui. Pedina la moglie e si convince che lo tradisca, ed è ben lieto che ciò avvenga. Chiede al commissario della polizia di inseguirlo fino all'appartamento dove pensa che i due amanti si siano dati appuntamento. Li fa sorprendere, e l'uomo misterioso è il ministro La Roche-Mathieu. Quindi, con la fragranza, Bellamy ottiene due piccioni: il divorzio per colpa manifesta della moglie e la fine politica di quello che ormai considera un suo nemico e di cui vuole prendere il posto. Adesso c'è un ultimo ostacolo ai suoi piani, è la signora Walter, che è innamorata di lui e che e ovviamente non concepisce che lui possa sposare la figlia lasciando lei. Allora concepisce un altro piano veramente odioso e suggerisce alla ragazza di scappare con lui in modo tale che una volta compromessa i genitori non potranno porsi alle nozze. Il piano riesce, il ricco Walter è costretto a dare in sposa Susanna a Bellamy vincendo le proteste della moglie che è disperata. Hai visto come ha spacciato con tre soli articoli quel papavero di La Roche-Mathieu? E con quanta dignità, cosa non certo facile nella sua posizione di marito. Insomma, staremo a vedere. Un fatto è certo, ci siamo lasciati accalappiare. Non abbiamo più via d'uscita. E se lui dice alla moglie ci siamo lasciati accalappiare, pensate cosa pensa lei, la moglie, che non può dire al marito che lo tradiva e vede il suo uomo scappare con la figlia e approdare a un matrimonio che, al quale partecipa tutto il bel mondo parigino, a parte la povera signora che è disperata per aver perduto il suo amante a favore della figlia che sembra invecchiata di colpo, che non rivolge parola al genero. Insomma, tutti gli altri si rallegrano con la coppia. Il vescovo ovviamente è ignaro di tutto quello che è successo e nell'omelia fa appello ai migliori sentimenti dei presenti. Finalmente, forse in questo momento, Bellamy è riuscito a allontanare il senso di morte che lo ha sempre impaurito, e questa volta il destino si compie nel migliore dei modi. È ignaro, o forse indifferente, a tutti gli atti privi di scrupoli che ha compiuto pur di soddisfare le sue ambizioni. Lì c'è la chiesa addobbata a festa, in cima alla scalinata Bellamy si volta a guardare chi si trova sotto di lui e si volta anche a guardare quelli che lui ha travolto, ha calpestato pur di salire. Tra tutti quei volti, l'unico che ancora gli smuove qualche sentimento è quello di Clotilde Marel, che nonostante tutti i tradimenti gli rimane accanto, è l'amante silenziosa, superficiale come lui, dedita al piacere ma almeno onesta in questo suo affetto scellerato, e per il resto ai suoi occhi non esiste altro che una folla nera senza volto, gente senza importanza. Georges riprese il braccio di Suzanne per riattraversare la chiesa. Era piena di gente, ognuno avendo ripreso il proprio posto per vederli passare insieme. Lui procedeva lentamente, con passo pacato, a capo alto, gli occhi fissi sull'ampio vano soleggiato della porta. Sentiva dei brividini corrergli sulla pelle, quei brividini freddi che danno certe felicità troppo grosse. Non vedeva nessuno, non pensava che a sé. Giunto sulla soglia, scorse la folla ammassata, una folla nera, rumoreggiante, venuta lì apposta per lui, Georges Duroy. La popolazione di Parigi lo guardava a bocca aperta e lo invidiava. Quanti ne ho conosciuti di Georges Duroy, quanti ne abbiamo conosciuti. È una storia che si ripete e si ripeterà, insomma, fino a quando i valori della vita saranno esclusivamente questi. Storie di persone che hanno dato un colpo d'ala, fosse anche un colpo d'ala nel nulla, nel lusso e nell'ascesa sociale fatta a tutti i costi, anche calpestando altre anime. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al Falco il Gabbiano @radio24.it, visitate la nostra pagina, venite a trovarmi, a trovarci sui nostri social. Insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.